Cerca su Facebook, Telegram e Instagram Runtime Radio. Mettiti in contatto con noi. Scopri il nostro palinsesto su www.runtimeradio.it. Ed è così che iniziamo questa mattina, con un po' di sprint, un po' di tra-tra-tra, che alla fine ci fa sempre un po' bene. E vi do il buongiorno, perché questa è, diciamo, la mattina in cui la trasmissione si chiama Buongiorno e Basta, perché non è né Buongiorno un cazzo, né Il Mattino Loro in Podcast, né Disordinati Informati, è qualcosa così da buttare in mezzo, tanto per fare un po' di chiacchiere, per coprire anche, insomma, lo spazio che oramai è diventato un'abitudine. Quando una cosa diventa un'abitudine bisogna sempre rispettarla e non tradire le aspettative delle persone che magari si aspettano che stamattina Runtime Radio trasmette qualcosa, e quindi siamo qui, insomma, per fare questa cosina carina insieme. Parleremo di cose di vario genere, praticamente niente di particolare, niente di sostanziale, veramente chiacchiere libere. E tra queste chiacchiere libere parleremo anche di Runtime, dato che, insomma, visto che sta piacendo la trasmissione che ho messo sul come mettere su una web radio. Tra l'altro, questo mi fa anche piacere. Secondo me, diciamo che il podcast non è il sistema migliore per fare questo tipo di iniziative, però allo stesso tempo evidentemente copre comunque, per chi è interessato, chi è abbastanza nerd anche per conoscere un po' i tecnicismi, allo stesso tempo è qualcosa che può interessare per chi ascolta e fa la lunga durata, anche perché devo dire ci sono, al di là dei podcast, al di là dei tutorial testuali che ci sono, insomma, che più o meno sono tutti, sapete come funziona oggi sul web, praticamente c'è un articolo che di solito non dice niente, che viene ricopiato da tutti i siti che ovviamente cercano di fare clickbait, e quindi alla fine che l'articolo di per sé dica qualcosa o non dica qualcosa può assolutamente interessare fino a un certo punto. Ma in particolare, scusate, mi è partita la pubblicità, scusa Alex, non ti voglio, ecco, bravo, ti saluto Alex, è stato un piacere, la tua app poi mi fa piacere che, insomma, funziona bene e si aggiorna anche molto velocemente, anche se Apple deve sempre lì controllare, ma che hai fatto, stai a fare qualcosa. Comunque, dicevo dei vari tutorial testuali, però ci sono tantissimi tutorial in video, diciamo, che quelli sono quelli, insomma, che la gente predilige quando si tratta di queste cose. Però, essendo un argomento molto complesso quello della web radio, mi fa ridere vedere, insomma, che così in 7 minuti, 10 minuti ti spiegano come mette su una web radio. E diciamo che i video, diciamo, fanno da estensione a quegli articoli che poi ti dicono tutto e non ti dicono niente. E come dico sempre, anzi come ho detto nell'incipit della trasmissione, spesso e volentieri diciamo la premessa è come mette su una web radio in pochissimi minuti e a costo zero. E, sì, non è che non sia possibile di per sé, ma chiaramente non è quello il risultato al quale voi ambirete, anche solo se lo fate in maniera abbastanza appassionata. E invece è una cosa molto complessa, perché dopo che sei entrato nella logica, nel meccanismo, alla fine comunque, diciamo, sei abbastanza adeguato a quello che è il meccanismo, le meccaniche, hai capito il linguaggio, hai capito come funziona, tutte le dinamiche, quelle che si chiamano proprio le dinamiche, anche di rotazione e tutto quanto. Però, insomma, all'inizio non è poi così semplice, e anche dopo, quando sei abbastanza skillato, soprattutto in questa fase di trasformazione che abbiamo fatto noi di Runtime Radio, quindi passaggio in un server, l'aggiornamento dei software che hanno creato dei problemi, alcuni problemi tecnici che abbiamo subito risolto, tutta una serie di cose che ho, per esempio durante questo giorno e mezzo mi hanno portato a fare oltre 24 ore di trasferimento di file, perché quando avevamo installato il nuovo server si erano duplicati dei file, c'erano stati dei problemi, quando caricavamo i file si interrompeva la trasmissione, insomma c'erano dei problemi chiaramente che abbiamo risolto. E quindi praticamente che cosa ho fatto io durante le ultime 30 ore? Ho cancellato tutto quello che stava sul database, nell'archivio ovviamente, nella nostra regia sul server, e l'ho ricaricata, mentre tutta la dinamica della radio erano trasmesse direttamente da qui, dallo studio centrale, con il software di regia che è sicuramente migliore di quello che abbiamo sul web. Quindi insomma alla fine la gente non si è accorta di niente. Anzi, forse ne ha pure guadagnato da un certo punto di vista, perché alcune cose erano molto più accelerate, la qualità dell'audio è anche migliore e via dicendo, però praticamente non si è accorta appunto di questa fase di transizione, dove è stato cancellato tutto quello che stava all'interno della directory ovviamente specifica nel nostro server, è stato ricaricato tutto. Stiamo parlando di oltre svariate decine di giga di file in trasferimento FTP, che anche se ci avete la linea veloce sarà sempre un problema, perché l'FTP accelera durante il trasferimento. Quindi se voi trasferite un file da 5 giga è sicuramente meglio che trasferire centinaia se non migliaia di file da pochi mega, perché ovviamente ricomincia ogni volta, non accelera mai, no, fondamentalmente. E quindi insomma veramente tutta questa operazione dura da 30 ore e mia moglie stava lì che mi diceva: okay, basta, stacca via questa radio. Ma io in realtà non sto ascoltando la radio, sto vedendo se ci sono problemi durante questa fase di grandi smuttamenti, insomma. E quindi vabbè, tutto questo anche per dire che alla fine ci sono grandi trasformazioni. C'è questo programma che mi sta piacendo fare, perché capisco appunto che pur essendo in audio, quindi magari c'ha degli svantaggi, è sicuramente molto più approfondito di quanto in realtà si possa trovare su YouTube. Anche se su YouTube c'è un tizio che tra l'altro Francesco Di Muro conosce, adesso non mi viene il nome del tizio, che fa una marea di tutorial su tutto quello che riguarda un po' l'audio, lo streaming, web radio, OBS, quindi streaming video, Twitch. Fa tanti tutorial molto dettagliati, talmente dettagliati che alla fine ci sono alcuni video che sono di 4 ore, insomma, no? È vero che ti insegnano bene tutto, però insomma, sai, è sempre un po' complicato fermarsi in un punto, poi riprenderlo, oppure ti serviva quel tipo di informazione specifica e devi riscorrere tutto il video per cercare di capire dove era quell'informazione. Però ecco, comunque, anche tutto questo per dire che durante questa settimana ci sarà nell'ennesimo tentativo di capire se c'è un'evoluzione in questo progetto, che come vedete alla fine comunque ci costa impegno, e dobbiamo dare merito a questo impegno, cioè nel senso cercare di trasformare Runtime in un modello, in qualche maniera, in qualcosa che non dico che ci dia da mangiare, ma quantomeno che giustifichi il tempo che ci spendiamo. Che sì, ok, le donazioni, comunque magari anche Spreaker con la pubblicità in qualche maniera, non dico che ci ha portato a pareggio, anzi diciamo ci ha portato a pareggio con quelle che sono le spese, però è giusto anche insomma che il tempo che uno impiega all'interno di questa cosa porti comunque quella soddisfazione in qualche maniera. E quindi stiamo cercando cercheremo insomma di capire se esiste un modello economico, anche perché Michela lo sa bene, con Marco e Luca noi abbiamo collaborato, una parola sbagliata, secondo me abbiamo lavorato per una web radio a Roma qualche anno fa, tra l'altro gratuitamente, però abbiamo lavorato, non era volontariato, cioè per me quello era un impegno di lavoro, che aveva un terzo delle trasmissioni che abbiamo noi, eppure aveva costruito un modello, cioè nel senso, poi è vero che bisogna averci un po' anche la faccia da culo, diciamo così, scusate il termine, perché lui praticamente quando si presentava agli sponsor che faceva? Lui faceva vedere il conteggio di Spreaker come podcast, cioè aveva 200.000 ascolti, ma quindi non so 200.000 ascolti reali, quindi sono 200.000 download che negli anni si accumulano. Ma tra l'altro questo counter non esiste manco più su Spreaker, non è neanche più pubblico. Quindi lui praticamente si presentava in giro, cioè, vedi, c'ho 200.000, e in qualche maniera qualcosa riusciva, insomma, a barcamenasse. Noi chiaramente non vogliamo fare né i disonesti né niente, però dobbiamo capire se esiste la possibilità di costruire un modello che permetta alle persone che amano questa radio per i programmi che ci stanno di continuare a vedere, a sentirla, e allo stesso tempo di crescere, diciamo, e inserire all'interno del progetto anche altre realtà che possono comunque portare ricchezza all'interno del palinsesto. E insomma, questo è un po' un momento di transizione che magari abbiamo rimandato per tanto tempo, ma adesso comincia a diventare inevitabile, anche perché tutto sommato è giusto che sia così, no? Magari noi comunque abbiamo sempre tenuto in considerazione il fatto che sia un gioco, continuerà ad essere così, però insomma bisogna dare un po' di dignità, no, a questo tipo di lavoro, anche perché continuo a dire, noi lo diciamo spesso, Runtime Radio come web radio totalmente amatoriale e a volte anche un po' pirata, diciamo così, ha il triplo delle trasmissioni di alcune web radio che sento io, che comunque hanno costruito un modello in qualche maniera, e quindi no, non penso che sia possibile. Che voi che dite? Ce la possiamo fare? Attenzione che mi è partito, insomma, tipo l'embolo, ma soprattutto mi è partito che stamattina il programma di regia c'ha lo sblocco, ha deciso che proprio non ne vuole sapere. E questo è un po' un problema, mi scoccia, perché avevo preparato delle cose che però non funzionano, e quindi, sai, vi dico. Vabbè. It's just different. C'è qualcuno che ascolta Runtime Radio e che diciamo ha delle idee, oppure ha dei modelli da presentare, oppure sapete, qui dalle parti nostre c'è questa radio, Radio Barbagia, che magari vuole dare suggerimenti, noi siamo pronti ad ascoltare. E nel frattempo mercoledì sera ci sarà questa riunione, dove sicuramente sarà una riunione preliminare, dove insomma si porteranno delle idee, dei modelli, qualcosa insomma che possa essere utile, diciamo, al discorso che stiamo giustamente facendo. E invece E insomma, sempre un po' per dire quanto poi mia moglie ha pazienza, no, su questo tipo di cose. Ieri sera lei stava guardando la trasmissione di Fazio, e in questa trasmissione di Fazio, voglio, quindi cambiamo completamente argomento, in questa trasmissione di Fazio lei la guardava e dietro c'ero io che biastimavo in ogni lingua del mondo, e lei giustamente si infastidisce perché dice: sì, ma prima di biastimare ascolta, poi dopo biastimi, no? E invece a me, devo dire la verità, è proprio il presupposto che mi dà fastidio, perché a parte Fazio, che vabbè, io devo dire non lo seguo da veramente da un decennio, forse anche più, che non mi capita proprio di guardarlo, e devo dire una tristezza, cioè, ma a volte mi viene in mente, stiamo parlando dello stesso Fazio pseudo comunistoide che faceva le imitazioni, che faceva, perché se è lo stesso, non lo so, secondo me è stato posseduto da un prete morto, e che praticamente lo ha, cioè lo ha invaso, è veramente, è diventato il personaggio più vecchietta oriented possibile e immaginabile, proprio stile Rai, proprio, no? Eppure sta su Rai 3, cioè nel senso, uno che una volta Rai 3 era, diciamo, la pecora nera delle tre emittenti Rai, perché insomma era quella un po' più ribelle. Aspettate che mi sono scordato, che mi sa che c'è un, sentiamo un attimo Leo che cosa ci dice, se si sente, vediamo un po'. Ciao a tutti quanti, niente, questa è la mia voce attuale. Grazie ancora Simone per avermi sostituito. Buongiorno e basta a tutti. Bello, bello, bella voce, complimenti. Potresti doppiare un personaggio dei cattivi, quelli dei videogiochi. E poi questa Inception con sotto la mia voce che parlo, è bellissimo. Comunque, dicevo, insomma, di Fazio che... Allora, perché io non guardo le reti generaliste in generale, non lo faccio da tanto tempo, in particolare la Rai, per quanto magari a volte ci si prova anche a fare dei perché è veramente, oramai è tutto Piazza Italia, è tutto La Vita in Diretta, cioè tutto con quel degrado morale ed etico che veramente a me fa veramente schifo. E questo è triste, perché quando tu vedi dei giornalisti che parlano della guerra, anche inviati, poi sempre tra virgolette, che parlano della guerra con quel modo così puerile, democristiano, e i bambini che piangono, e il bambino che fa boom boom perché dentro la sua testa gli ricorda le bombe. Cioè, regà, la guerra è una merda infinita di suo, no? Con tutto quello che ovviamente ne comporta, no? Quindi disagio, morte, fughe, evacuazioni, profughi, separazioni, famiglie distrutte, per carità, no? Nessuno lo mette in discussione e lo sappiamo. Raccontare in maniera asciutta serve per rendere dignità a quello che sta succedendo, alle famiglie che magari vai raccontando. Farlo in questo modo, così bieco, mielenso, strappacore, capito? Che non c'è. Cioè, pure, poi alla fine pure Michele a un certo punto si è resa conto che in effetti queste madri non c'hanno mai dei cognomi, so sempre dei nomi così a caso, Svetlana, sono tutte Svetlana, e ci hanno tutti questi bambini che piangono col trauma della guerra, e che non che non sia così, però è proprio questo modo di raccontare che alla fine non fa altro che, poi tra l'altro una trasmissione military oriented proprio, perché era proprio completamente indirizzata al fatto che bisogna intervenire militarmente perché ci stanno i bambini che piangono, perché questo è il succo di quello che ne esce fuori, no? Quindi questa contropropaganda, che poi alla fine diventa un filo rosso, insomma, con la politica in qualche maniera, è veramente un po' sconcertante. E da parte di uno come Fabio Fazio, che io ho sempre considerato quantomeno intelligente, poi magari non sarà il top del top, però insomma l'ho sempre considerato una persona abbastanza intelligente, e mi fa un po' specie. Tra l'altro, poi a un certo punto, al di là di questa giornalista che ha cominciato a fare tutta sta mielenza, insomma, che pure Michele a un certo punto ha cominciato, diciamo, io sono andato avanti, poi lei ha cominciato a borbottare pure lei. Poi c'era quest'altro giornalista che raccontava ovviamente del dove è arrivata la guerra, no? Nel senso, comunque cercando anche di far capire dove, cioè nel senso fino a che punto è arrivata, insomma, questa invasione della Russia. Si è parlato del famoso reporter, famoso purtroppo per lui, insomma, adesso queste ultime ore, il famoso reporter del New York Times, che è rimasto ucciso durante il conflitto. E tra l'altro qui inizia sempre il solito rimbalzino degli ucraini che dicono che, dato che il proiettile veniva da là, sono stati i russi. E i russi dicevano che il proiettile potrebbe essere pure ucraino perché sono gli stessi proiettili. Quindi non... scusate, non sapremo mai. Però... anche qui questa cosa, questo racconto, che poi tra l'altro, vabbè, ci fa capire che, essendo un iper appassionato, diciamo, del suo lavoro, dell'essere un reporter di guerra, di essere un documentarista, lui è comunque sconfinato oltre un'area nella quale comunque era stato detto che neanche i reporter devono andare per ragioni di sicurezza. E quindi giustamente purtroppo questo è quello che succede nei territori di guerra, cioè si prende un proiettile anche involontariamente, no? E Fazio gli chiede al giornalista: ma tu lo conoscevi? E lui dice: ma no, ma ho sicuramente incrociato il suo sguardo. Allora, ma di che volevamo parlare? Sei su Runtime Radio, la talk radio geek. See, I just need privacy. Plus a whole lot of tree, fuck all this modesty. I just need space to do me, get a world what they're trying to see. A Stella Maxwell right beside of me. A Ferrari, I'm buying three. A closet of Saint Laurent, get what I want when I want. Cause this hunger is driving me, yeah. I just need to be alone. I just need to be at home. Understand what I'm speaking on. If time is money, I need a loan. But regardless, I'll always keep keeping on. Fuck fake friends, we don't take L's, we just make M's. While y'all follow, we just make trends. I'm right back to work when that break ends. Yeah. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. Ooh. Yeah. My soul. And I don't like talking to strangers, so get the fuck off me, I'm anxious. I'm trying to be cool, but I may just go apeshit. Say fuck y'all to all of y'all faces. It changes though now that I'm famous. Everyone knows how this lifestyle is dangerous, but I love it, the rush is amazing. Celebrate nightly and everyone rages. I found how to cope with my angers. I'm swimming in money, swimming in liquor. My liver is muddy, but it's all good. I'm still sipping this bubbly. This shit is lovely, this shit ain't random. I didn't get lucky, made it right here cause I'm sick with it. Cuddy, they all take the money for granted, but don't wanna work for it. Tell me now, isn't it funny? Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. Ooh, yeah. I don't need a handhold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul. Vabbè, in mezzo a tutta questa, insomma, questo momenti di grande emozione televisiva e giornalistica, chiaramente Leo mi chiede che cosa dice, insomma, Fazio della che mi viene da ridere, perché praticamente Fazio poi c'ha questa prerogativa proprio profondamente democristiana, cioè lui non dice niente fondamentalmente. ma è stato triste perché prima di passare la parola al collegamento a questa giornalista inviata, quella delle mamme dei bambini che piangono, e lui dice: adesso passiamo la parola, però senti, ce la fai a stare 5 minuti? Perché purtroppo ho questa cosa. Si vergognava, no? La pubblicità, c'è la pubblicità, purtroppo devo mettere la pubblicità, e quindi niente, insomma, ce la fai a restare un pochino. E quindi diceva sì sì, ma a un certo punto, dopo 3 volte che ha detto sta cosa dalla pubblicità, poi evidentemente qualcuno, e poi non mi dite che non so preparate queste cose, qualcuno gli deve aver fatto un gesto: ah, non la mandiamo la pubblicità, oh che bello, meno male, perché capito? Allora loro devono mandare la pubblicità perché devono campare la pubblicità, però si vergognano giustamente di mandare la pubblicità in un contesto, quindi fanno vedere il sacrificio che la trasmissione fa a favore dell'informazione e addirittura rinunciano alla pubblicità, no? Cioè questa cosa, ma poi lui con questo tono tipo che pare che sta morendo anche lui, insomma, da un momento all'altro, che te lo immagini, insomma, tipo signor presidente, capito? E insomma devo dire, e capisco insomma che Michela voleva vedere perché si aspettava Sean Penn, che sapete è andato lì a fare insomma il documentario su quello che stava succedendo. C'è stato 2 giorni, no? Lui è andato, tutti ha parlato, vedi, è andato lì sul fronte, 2 giorni c'è stato poi è tornato via, già sta in Italia in televisione, capito? In che modo, insomma, questa gente. Io poi alla fine è un po' l'effetto Salvini, no? Io voglio bene a tutti e non voglio bene a nessuno, però statevene a casa, cioè non andate a rompere i coglioni, cioè o ve mettete lì e ve caricate i sacchi di farina e portate da mangiare la gente, e questo vi renderebbe onore e vi considererei degli eroi, perché probabilmente io, che so io, non avrei il coraggio di farlo, però se dovete andare lì solo per fare la scena, che se andate lì come i TikToker, hai visto quelli là che piangono fanno i video dei 10 secondi che piangono, ma guarda, io veramente, ragazzi, sto vedendo, cioè questo è il problema di una società completamente devastata dal social media, completamente devastata dal social media, perché chiaramente il social media, anche se la televisione non lo vuole ammettere, influisce oramai in maniera preponderante anche sulla televisione, che già faceva schifo prima chiaramente, e oggi fa ancora più schifo, cioè nel senso è peggiorata chiaramente la situazione, ma non poteva essere altrimenti. E poi giustamente c'è questa amplificazione, no, dovuta dall'influenza che oramai i social media hanno praticamente su ogni cosa, compresa la politica, perché oggi non si fa più politica in senso concettuale, cercando di portare delle idee, si fa politica a suon di slogan su Twitter, no? Che sì, la politica è sempre stata slogan, ma almeno una volta si articolavano dei dibattiti, oggi non ci sono più i dibattiti. Oggi so uno che parla e l'altro che gli strilla contro, no, no, no. Oppure Salvini con i dopo sci dell'Enrico Piano. Io, cioè, non mi dimenticherò mai questa cosa che mi ha fatto veramente ridere. Però una cosa che ci dovrebbe un po' tirare su di morale è che siamo arrivati alla fine della vita politica di Salvini. Cioè noi la auspichiamo da tanto tempo, poi non lo sappiamo se succederà veramente, perché poi lo sapete che c'ha talmente la faccia insomma sua che alla fine riemerge sempre in qualche modo, però pare che insomma stavolta con questa cosa del confine con la Polonia ha veramente insomma superato quel limite che sapevamo che prima o poi avrebbe fatto, ma perché è una sua psicosi, una sua necessità fisiologica, psicologica, cioè si è capito questo che è un problema proprio mentale, cioè questa sua esigenza di dover essere talmente tanto che alla fine lo fa essere nei posti sbagliati, nei momenti sbagliati. E pare insomma che la Lega ci sia un grosso fermento, e non solo, c'è un documento della regione Lazio, della regione Lombardia, del consiglio regionale, per parlare degli usi inappropriati di marchi e di associazioni da parte di Matteo Salvini nella sua incursione in Polonia. Quindi avete visto insomma, no? Perché lui veramente, ma poi raga, ma date una controllata, non solo perché tu vai là e qualche mese prima sei stato con la maglietta di Putin, ma sei andato lì con quella felpa piena di marchi che manco Valentino Rossi dopo il Gran Premio, dopo il GP, no? Dopo il MotoGP. Cioè, ma cazzo, un minimo di intelligenza, ma cosa vuoi fare? Cosa vuoi rappresentare? Perché poi hai preso i soldi da quei marchi che subito tutti si sono dissociati, eh? Stavolta veramente, secondo me. E leggevo poi ieri sera prima di addormentarmi, quindi non ho solo un barlume di memoria, poi magari questa sera sicuramente ne approfondiranno la questione su OGM alle 21, vi ricordo sempre in diretta qui su Runtime Radio con Walter Sbano e la Combriccola. Questa cosa che a Salvini stanno a preparare col trappolone. Cioè, se lo vanno proprio un culà, cioè, stavolta, scusate il termine, però insomma io penso che sia un momento tutto sommato da una parte di liberazione, no? Perché cioè, te la meriti, cioè, mi dispiace ma te lo meriti. Dall'altra, chiaramente tutto questo lascia spazio al peggio o al meglio, perché in realtà l'ala della Lega che vorrebbe emergere adesso è quella che vorrebbe riportare la Lega alle origini, che a noi non piaceva uguale fondamentalmente, però era quel movimento liberale, federalista e antifascista, che questo era la Lega inizio, eh? Cioè non è che tant'è che ci sono state tantissime volte, al di là delle polemiche all'inizio, volete dividere l'Italia, no? Perché giustamente il movimento della Lega all'inizio è stato così dirompente anche idealmente, che l'unica cosa che c'è stata all'inizio è stata proprio una reazione anticorpica quasi alla Lega stessa. Però la Lega, per chi se lo ricorda, era comunque un movimento liberale, federalista e antifascista, tant'è che ci sono stati anche degli ammiccamenti ancora all'epoca di Achille Occhetto tra Lega e Partito Democratico della Sinistra. Non so se ve lo ricordate, c'è stato un momento in cui avrebbero potuto anche governare insieme, insomma. Poi vabbè, ci furono delle scelte di campo che furono verso Berlusconi, ma secondo me lì anche per ragioni strettamente economiche. Poi vabbè, Bossi era quello che era, e c'erano anche all'interno della Lega già dei personaggi molto di destra da un certo punto di vista, quindi chiaramente non sarebbe stato mai concepibile. Però al di là degli estremismi, quindi di alcuni pazzi infervorati che ci sono ancora in giro, diciamo che la Lega era una destra liberale, non era una destra liberista o nazionalista e fascista, insomma. Quindi ecco, c'era questa cosa qui, questo tentativo di portare la Lega, tant'è che per mandare avanti Salvini, voi sapete la cosa della doppia Lega, no? Cioè la Lega ufficiale, che è quella là che sta lì inerte, che serve semplicemente per pagare all'erario praticamente quello che loro devono per le tasse che si sono ciucciati, e la Lega, quella che invece ufficialmente manipola i soldi, quelli veri, in realtà è questa legata a Salvini. E quindi sono tutti quei politici della Lega che sono tutti bloccati e stanno lì, praticamente non vedono l'ora di riportare chiaramente il movimento a una condizione, diciamo, di origine forse, oppure addirittura anche a peggiorarlo, perché questo oramai non lo sappiamo più che cosa è diventato la Lega al suo interno, perché noi ci abbiamo sempre questa immagine solo ed esclusivamente di Salvini, e quindi insomma diciamo capiamo poco, se non andando ad approfondire direttamente, cosa che non è una cosa che ci interessa così particolarmente. E vabbè, dai, una piccola pausa, così io mi riprendo un attimo con la voce e poi vediamo se troviamo anche un altro argomento. Nel frattempo leggo anche i vostri commenti. Da una costola imbruttita di OGM arriva le O Razioni della Sera. Commentiamo assieme a voi i fatti della giornata appena trascorsa. Quali fatti? La cronaca, ma non solo. Potremmo commentare cose successe, piccoli spaccati di vita vissuta da tutti quelli che si troveranno da queste parti. Quindi soprattutto da voi. Sì, perché l'idea è quella che voi siate parte integrante di questo format. Condividete i vostri audio, scriveteci in tempo reale sul nostro gruppo Telegram Dirette Runtime o dateci la disponibilità a partecipare in diretta e verrete coinvolti. Le orazioni della sera vi dà appuntamento martedì, mercoledì e giovedì dalle 20 alle 20:30 per mandarvi di traverso la cena. No fui el primero, ni seré el último, pero sé que lo gozaré. Para serte sincero, un dios el que te enseñó lo que puedes hacer con mi piel. Yeah, yeah, yeah, yeah. Baby, si se nos da, yeah, yeah. Será lo que será, yeah, yeah. Los dos vamos a matar, yeah, yeah. Toda esa curiosidad. Baby, si se nos da, yeah, yeah. Será lo que será, yeah, yeah. Los dos vamos a matar, yeah, yeah. Toda esa curiosidad. Solo yo sé de ese lunar, solo tú comes el pastel. Con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer. Me dijiste no quiero nada, pero quieres todo, mujer. Baby, yo te hago soñar algo más rico que la miel. Mi droga que te legalice. No digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen. Que la piel tú y yo jugando, baby, ¿para qué te dices? Y tú solo dices que quieres más. Que matemos la curiosidad, eso hacemos. Baby, si se nos da, yeah, yeah. Será lo que será, yeah, yeah. Los dos vamos a matar, yeah, yeah. Toda esa curiosidad. Baby, si se nos da, yeah, yeah. Será lo que será, yeah, yeah. Los dos vamos a matar, yeah, yeah. Toda esa curiosidad, yeah. Aquí viviendo roce, estamos solitos, ellas son más de las 12. Pegándote bien lento, baby, para que tú goces. No somos algo serio, pero bien si me conoces. Yeah, yeah, tú eres el antojo de mi vida. De tanto que te pienso ya no encuentro la salida. Pero no somos nada, nada, girl. Pero no somos nada, nada, girl, yeah. Mi droga que te delicia. No digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen. Que la piel tú y yo jugando, baby, ¿para qué te dices? Y tú solo dices que quieres más. Que matemos la curiosidad, eso hacemos. E dai, che vi piacciono le canzoni latine, eh? Questa è Curiosidad de Nigo Rengifo, ragazzi, oh, mica ragazzi, eh? Roba bella, roba potente. Comunque ripercorriamo un po' la chat e giustamente Michela ci fa capire una cosa che non sapevamo, ma chiaramente se non abbiamo seguito non avremmo mai potuto sapere, e ossia che Sean Penn non è andato lì a fare il documentario sulla guerra, ma era già lì perché stava facendo un documentario su alcuni musicisti ucraini, e quando si è poi scatenato l'inferno, diciamo così, alla fine che ha fatto? Si è dato giustamente, anche perché cioè non è che uno deve stare lì a fare, insomma. E nel darsi praticamente ha documentato, diciamo, la voce di tutte le persone che erano lì, insomma, diciamo, durante questo esodo praticamente ha fatto lo stesso tragitto, e quindi si è documentato intervistando magari le persone, e quindi probabilmente ne verrà fuori comunque magari anche qualcosa di interessante tutto sommato. Però fondamentalmente, ecco, abbiamo capito che lui non era lì come era stato scritto sui giornali, poi non è che ce lo inventiamo noi, no? Ah, Sean Penn è andato lì a fare le interviste, è andato a fare il documentario sulla guerra. Boh, vabbè, comunque dai ragazzi, è questo Bailam di cui noi dobbiamo assolutamente avere bisogno, perché non basta appunto la guerra in sé, ma c'è bisogno appunto di questo gran casino, di questo grande rumore che facciamo, perché siamo arrivati a quel punto di non ritorno della spettacolarizzazione di qualsiasi cosa, e soprattutto determinati media o determinate testate, insomma. Ma poi ieri sera, ragazzi, c'era il direttore del Foglio. Oh, c'era il direttore del Foglio. Io non lo so, cioè io faccio fatica ancora a pensare che qualcuno. Allora, se arriva il primo direttore stronzo possibile che apre il nuovo giornale, tipo il Foglio, appunto, no? E allora devono essere per forza considerati giornali istituzionali, perché sono giornali, e allora la democrazia ci impone. Cioè, ma di che cazzo stiamo a parlare? Del Foglio? Ma stiamo a parlare del Foglio, raga? Cioè, boh. Ovviamente era pro guerra, cioè nel senso che noi siamo dei ipocriti perché non andiamo in guerra, dobbiamo andare in guerra, no? Giustamente, che fai? Se no siamo degli ipocriti, giustamente, vabbè. Ma perché non inizi intanto? Cioè, perché tu non posi la tua penna, il tuo portatile dalla tua redazione, incominci, ti incammini un pochino, prendi il pullman e vai. Io magari c'è qualcuno, sicuramente ti segue pure, perché magari qualche matto, insomma, ci sarà anche. E Walter dice sul discorso della felpa di Salvini che che le aziende che hanno fatto dietro fronte, diciamo così, in realtà poi non hanno fatto dietro fronte, non è che lui diceva che hanno fatto dietro fronte, cioè nel senso che comunque voi sapete Audi in particolare si è dissociata dicendo che comunque, e questo secondo me è anche un discorso abbastanza logico per un marchio importante, no? Cioè nel senso comunque un marchio così nazionale, internazionale, diciamo così, più internazionale che nazionale, perché l'Audi che è svedese, non come ricordo, e giustamente dicono noi non sponsorizzeremo mai nessun politico direttamente, cioè nel senso non è che si mettano a mettere il marchio Audi sulla campagna elettorale di Tizio piuttosto che di Caio, questo vale ovviamente per tutto lo spettro politico. Però Walter sostiene che sta cosa, loro dicendo questo fanno ancora una più brutta figura, ma in realtà sai il problema non è il fatto che tu dai un tuo marchio e poi dopo ti dissoci, allora vabbè sei un po' una merda. Il problema è se un giorno uno si sveglia, si appiccica della roba sul petto e va a dirvi Varduce, giustamente tu dici, oh ma io che cazzo c'entro con sta roba, ma che volete, no? Cioè nel senso, ma come ti permetti? E secondo me, questo poi la dice lunga su quanto poi Audi e compagnia bella dicano la verità, io mi aspetterei una denuncia già a questo punto. Di uso non autorizzato di un marchio, che comunque sapete il marchio c'ha un valore istituzionalizzato per un'azienda, cioè non è che tu puoi utilizzare un marchio in un'azienda così a cazzo di cane senza poterne poi pagare magari le conseguenze, se c'è da pagare le conseguenze. Quindi mi aspetto insomma che Audi piuttosto che di ah no ci scusiamo ma noi non ne sapevamo niente, noi non sponsorizzeremo mai nessun politico di qualsiasi area ideologica, insomma, esso appartiene, però se lo pensi per davvero fagli causa, cioè nel senso chiedi i danni, perché insomma alla fine comunque t'ha associato e questa cosa rimarrà, mo oggi sì ci fanno caso, ci viene da ride perché è Salvini, no? Però poi alla fine sono cose che usciranno fuori soprattutto negli anni, quando poi inizieranno, capito, quelle campagne denigratorie magari del tuo avversario politico, uscirà fuori questa cosa, che no, tuo avversario anche economico, no? Cioè nel senso il tuo competitor diretto, che comunque tirerà fuori queste cose anche indirettamente, no? Cioè nel senso sono comunque se andare lì arbitrariamente con delle toppe a caso per far vedere che tu sei stato come posso dire, incaricato, insignito, diciamo illuminato dalla volontà altrui, insomma, di fare quello che fai, insomma regà, cioè è abbastanza biega come cosa tutto sommato, no? Se ci pensate bene. E Salvini chiaramente insomma non perde mai l'occasione, però questa volta sono abbastanza convinto che ci saranno delle conseguenze anche politiche, perché chiaramente oramai il dibattito è abbastanza acceso e lui è solo in questo momento, anche se è stato l'uomo che ha portato la Lega dal 5 al 15-20% a quanto sono arrivati, non lo so, e che so tutti i voti che comunque andranno alla Meloni, perché a sta gente del federalismo, la gente che vota Salvini del federalismo, delle idee liberali, dell'economia equa, del mercato, non gliene frega niente, tutta, è quella parte di italiani che culturalmente è sempre stata votata allo pseudofascismo e che con il berlusconismo in Italia hanno trovato insomma diciamo il coraggio di emergere in maniera così esplicita e palese, e che poi alla fine oggi si riverseranno appunto tutti nella Meloni, perché tanto questa è tutta roba che va alla Meloni, che fa che membri del suo partito politico sono stati sgamati in più occasioni a fare le cene fasciste, a fare reclutamento fascista, comunque a fare i saluti romani, a dire cose bieghe, però insomma per ora lei ancora non ne paga le conseguenze. Ma questa ondata di schifo, questo approssimatismo, questo qualunquismo, questo fascistume così, poi alla fine investirà anche lei, perché sparito Salvini a quel punto lei non potrà più fare quella che sta lì e guadagna dagli errori degli altri, sarà in prima linea, e in prima linea vedrete insomma che in poco tempo anche lei farà le sue belle cazzate e piano piano insomma uscirà fuori quello che è un po' il succo della questione, il succo, il succo, attenzione, cosa ne pensate? Adesso vi vengo a leggere. Questa è Runtime Radio. E vabbè, allora segniamocelo questo, perché da cancellare dal database e spostarlo in un'altra cartella, che è quella che viene utilizzata anche per i video, perché Lava House qua vi sta facendo addormentare con Other Worlds. Pure è bello sto brano, però chiaramente non è un brano cantato. Mentre continuate giustamente a discutere delle felpe di Salvini, e Walter ci dice che lui, insomma, oltre ad aver chiesto scusa da parte Colmar e Audi, avrebbe anche annunciato che ci sarebbe stata magari un'indagine per capire perché queste felpe sono finite a Salvini. E sì, come dicevo, io ho fatto proprio anche una richiesta di risarcimento danni, chiaramente, in fondo cioè anche legittimo da un certo punto di vista. Dall'altro invece, secondo me, dobbiamo sempre tenere in considerazione che Salvini con sta cosa delle felpe ci ha fatto politica per 10 anni fondamentalmente, tra l'altro accedendo a felpe, diciamo, di genere, no? Protezione civile, carabinieri, polizia, perché poi lui ci ha fatto campagna elettorale. Ma ricordiamo che lui ha anche indossato felpe ufficiali, cioè nel senso che vengono considerate uniformi, e quindi anche illegalmente e anche illegittimamente, senza tenere in considerazione il fatto che se io fossi giornalista, quindi avessi il tesserino e comunque magari insomma mi sarebbe piaciuto rompere il cazzo per capire poi come è andato a finire per quei poliziotti che hanno prestato la moto d'acqua al figlio dei Salvini, perché insomma, ragazzi, è questo che a noi ci piace, cioè come italiani a noi ci piace vedere uno che va lì a fare il ducetto e che in quanto ducetto si può permettere di fare cose che gli altri non possono fare, e questa cosa ci piace, non c'è niente da fare. Ah, vedi quanto è capo lui, fa come cazzo io vorrei, capito? Perché questo è un po' il discorso che ne viene fuori. Comunque, ragazzi, io direi che è vero che sono 8:48 e mancano 10 minuti, però insomma, per essere una trasmissione nella quale non ci eravamo preparati in niente, ed essendo complicato insomma per me leggere in tempo reale, sapete che non ci riesco, proprio ho dei limiti oggettivi, insomma, per quello se sei Audi o Colmar o Regione Lombardia, fai bellissima figura a chiedere scusa e dopo te lo inculi. Io adesso non so bene, questo sempre Walter, non so bene quali siano state le vere dichiarazioni, ho seguito un po' così, però ho letto il documento della Regione Lombardia che indice, forse per oggi, non mi ricordo, che induce ovviamente un richiamo d'urgenza del Consiglio proprio per discutere di questa cosa, quindi chiaramente oramai l'azione è stata compiuta e le reazioni ci saranno, non si può più, cioè voi dovete capire che anche se so amici, cioè non si può più rimanere immobili di fronte a questo tipo di situazione, perché chiaramente la sua capacità di portare questo comportamento all'ennesima potenza, esponendosi e mettendo anche in mezzo altre realtà che non dovrebbero entrarci in niente, poi sempre tutta gente che ha delle pseudo collusioni, cose strane, insomma, con Salvini non ti annoi mai, questo bisogna assolutamente riconoscerlo, perché c'ha questa capacità insomma di riuscire veramente a creare questo vortice infernale che appunto inevitabilmente prima o poi si rivolgerà verso di lui. Michela dice dai che magari è la volta buona che la finisce di andare in giro, ma sì, no, ma io sono abbastanza convinto che lui stava sparando le ultime cartucce, un po' come la morte del cigno lì, no? Che poi alla fine diventa tutto più eclatante alla fine, oppure come la morte di una stella, sapete come muoiono le stelle? Le stelle spesso e volentieri muoiono diventando supernove, ossia esplodendo con un'energia, una potenza tale da essere viste a centinaia se non migliaia di anni luce di distanza, perché praticamente la sua attrazione magnetica non è più in grado di trattenere ovviamente l'energia che sta scaturendo proprio per via dell'instabilità dei campi magnetici e del fatto che comunque la stella sta esaurendo ovviamente la sua forza vitale, E questo è quello che succede, cioè la supernova secondo me è la metafora di alcune situazioni della vita reale, cioè dove certe persone hanno talmente bisogno di brillare il doppio che chiaramente durano la metà. E questa è una citazione di Blade Runner, non è insomma una citazione tanto così a cazzo di cane, insomma, diciamo così, mi piace questo termine così politicamente corretto e soprattutto molto francese. Vado invece a leggere l'ultima cosa che leggo da Leo, che dice che Nedum, ovviamente sul fatto che la volta buona che se lo lamo dalle scatole, Leo dice che ne dubita. Non lo ha fermato il Covid e non lo hanno fermato le figure di merda più grosse. Ma questa stavolta però qui c'è un problema politico e istituzionale, cioè nel senso che Salvini è un po' come quando Sbano parla dell'ex presidente De Moratti, l'ex presidente dell'Inter, no? Cioè a Salvini comunque tutto sommato, dato che faceva comodo perché portava movimenti, è un po' come il bambino stupido che tu gli fai sì sì fai dai, ma sta a fare figo, vabbè dai, che sarà mai, no? Però chiaramente quando poi questa cosa perde il controllo e la sua necessità di essere al centro dell'attenzione, visto che chiaramente tutta questa situazione internazionale, il Covid, il secondo il governo Conte, il governo Draghi, in qualche maniera lo hanno fatto uscire lentamente di scena. Voi vi ricordate che lui faceva le riunioni al ministero come se lui fosse il capo del governo? Cioè, raga, ma cioè questo è uno che comunque non c'ha proprio il minimo controllo sulle cose che fa, capito? E quindi secondo me alla fine era inevitabile che lui facesse quel passo più lungo, facendo incazzare stavolta troppa gente, perché una cosa è far incazzare quell'area politica, quegli elettori che comunque lo odiano e non lo avrebbero votato mai e chi se ne frega, anzi lui ci sguazza su sta roba, ma una cosa è far incazzare istituzioni multinazionali, insomma ragazzi, cioè questo è un po' veramente forse il salto più lungo della gamba, e chiaramente secondo me poi ne pagherà, insomma, diciamo così, le conseguenze. Allora metto un ultimo brano, così cerco un attimo di raccogliere le cose che devo dire e così poi ci andiamo un attimo a salutare. Ciao Fioi, qua tutto bene? Come sia qua Runtime Radio? Un abbraccio enorme a tutti gli ascoltatori e niente, passate a ben, tanta birra e saluti da Padova. And town, I'll buy a boat and sail away upon a summer sea. And in a little lonely isle that's far and far from man, in peace and praise I spend the days to God to love to me. For I am weary of a strife so pitiless and vain, and in a far and fairy isle bewilderingly bright, I learn to know the lip and glow of rapture once again, and welcome every living down with wonder and delight. And there I build a swan white house above the singing foam, with brooding ease where joyously rich roses climb and pink, with crescents in a double row like wine and honeycomb, and flame trees dripping golden rain and palms. And there I let the wind and wave do what they will with me, and I will dwell unto the end with loveliness and joy, and drink from out a crystal spring and eat them of the tree, as simple as a savage. E dunque, carissimi amici, questa sera, ore 21, OGM, oggi messo dati. Questo è il titolo. OGM questa sera con Walter, Marco, Francesco e Puccio ritornano come tutti i lunedì sera e sicuramente ce ne saranno delle belle come sempre, anche se anche delle brutte, perché purtroppo poi la situazione resta sempre quella che è, e di cui insomma ovviamente non parliamo. Domani mattina invece c'è Michela con Disordinati Informati alle ore 7, mi raccomando, e da domani, quindi martedì, mercoledì e giovedì alle ore 20 fino alle 20:45 c'è ovviamente sempre Walter Sbano con Le Orazioni della Sera. Le mattine invece vi ricordo sempre dalle 7 alle 8 c'è sempre uno dei nostri programmi, anche se bisogna vedere poi mercoledì se giustamente Leo ce la fa con La Voce, perché in teoria poi mercoledì e venerdì ci sarebbe Leo con il Mattino all'Oro in podcast, sempre dalle 7 alle 8, e giovedì ci sarei io con Buongiorno un Cazzo. Vediamo insomma di preparare qualcosa di interessante, perché l'altra puntata mi sono un po' infervorato insomma, ma d'altronde Buongiorno un Cazzo è anche questo. Giovedì sera vi ricordo che torna alle 21:30 quando eravamo Futuro e parleremo di radio. La puntata si intitolerà Se una radio è libera veramente, ovviamente. Insomma, non poteva essere questo il titolo migliore, perché parleremo di radio, come stiamo facendo ultimamente. Parleremo delle radio, della nascita delle radio libere, ma soprattutto anche delle radio pirata, e avremo anche un ospite abbastanza importante, quindi insomma ci fa piacere poter parlarne con chi ha vissuto l'esperienza del momento all'epoca che era insomma. Detto questo, poi vabbè, ci saranno tutte le altre trasmissioni, se mi sono scordato qualcosa mi raccomando perdonatemi e abbiate pazienza. Buona giornata a tutti e statevi bene come sempre. Stai ascoltando Runtime Radio.